notte, vediamo un po'. Sento un... Questo baracchino, boh. Ma non sento niente, scusa, Gara, gara, sono spostato, gara. E dove stai andando, Sergi? A casa, la faccio un po' di infami. Ero a casa, è stato quello un po' tutto, di lì. Sono entrato alla mezz'ora. Mi sono ambasciato, non sto più qua, volevo far vedere una cosa. Dove, a casa tua? Ah, allora mi sento orgoglio. Ah, ha fatto quella colettura che mi avevi detto? Non lo so se te l'avevo detto, se va, però già... Già ne parliamo. Gava, gava, ma insieme? Sì. Tutto il regge. Faccio una mamma, adesso mi trasporto un chiave forte, eh? Che è che ti sei ancora fatto? Io la sento un po' curare che sto portando un po' di carne da fare arrosto, gamma! Un po' di capocollo! Una passata di galette di porco, gamma! Vette di porco, me vuole proprio bere. E piedini di anguille, cambio! Facciamo un po' di pista che calma la dondolo se vi serve. E mi già, problemi non avevamo noi a finire tutti, no? Capi che la gavi! Tu hai sembrato, salutone a tutta la ruota, Secondo me non ce n'è altri, queste inter che sono benissime. No, non è quella. È un po' così, là, ma già l'ho messa nella panda. Sto pensando tre ore. Cosa è la carina? Non si può più adesso. Mi serve un turner G3 a vedere se esco male con questo. Caro. Turner più 3. Sì. Ma c'è più dietro l'anno un turner più 3. Se non vai su B. Ma perché sono curioso a vedere come è con questo. Ce n'è uno grigio. Ma quello di Porno Torre ce l'aveva passato più tre. Ce lo stavo vendendo. Mi pare di sì. A quanto ho capito. Ma secondo me non era quello originale. Quello originale grigio per ma Natalia c'è sui B. Sui B. Vabbè, ma sono di circa dicembre. Ecco. Ma non si sono come le levano il gesso, Natalia. Avanti, forti. Ascoltando dalla colonia della Intec, ed è molto fedele come colonnina, ha una bella modulazione e tutto quanto vi fa. Sì, ma no, quella lì è veramente bella la colonnina, va bene. Fidati quella, magari ce l'ha Cosio, ce l'ha come cacchio si chiama, Grassi, perché tratta la Intec, Grassi magari ce li ha. Sirius Est. Avete comprato te, infatti, non è lui. Come è questo, da caso, faccio questo, che anche va bene, dai, grazie. Va bene. una cosa. Benissimo. Ciao Saverio, mi ascolti? Ciao Saverio a casa. capito, mi sa che c'è la vettura. Scappa. Chissà, sicuramente oggi i componenti sono tutti diversi, sono. Era un po' normale. Con quello smitter quando arrivo a casa tua? Allora parlare con quello smitter del magno. Quasi 9:30, aspetta cosa scrivo le scappa. Vai. Oh, ecco un secondo che è arrivata gente, dai. Ha fatto, va bene, siamo in ascolto. Ecco un attimo già. Buongiorno a tutti i civili del mondo. Bella, grazie piccolino, grazie. Prego, ciao. Ciao. Qua la stazione di Falchetto che ti supera. Saluto al 100%, Facci niente. Falchetto, per piacere, mi vendici? Perché Natale non mi ha detto facci niente. E perché non è vero che facci niente? Facci niente sarei tu, lo sai perché Natale? E sei anche da tagliare. Adesso vengo io e ti alzo in alto, hai capito se lo sei? Non gridare però. Non sto gridando. No. Natalia, asco, alza in alto il tuo cuore. Dai, da bravo, guarda che ti alzo in alto. Ha detto curte lì, non avete capito bene. C'è il cane di Natalia. Quando viene qua lo facciamo ficcare a quel marcolino, che non ci di sicuro di sempre. Quando vieni a casa divento super saiyan e ti distruggo. Ma con quella faccia da straniero? Poi si chiama Kurt Urg. Adesso non me lo ricordo. Non è tutta provocazione. Dipende di me. Questo che si deve fare è troppo adesso. La rivalità. No, deve fare i compiti, Natali, domani a fare i compiti. Penso che sei già troppo, va vedendo, che sta ogni volta. Squillante, Lanta. Via. Una scena, eh. È una scena. Ha detto che ti ha fatto il peso quando vieni a casa, Lanta. E cosa mi ha detto? Mi ti va via. Una volta lo fa la sua sorella, una cosa di acqua. Ma sicura che ti dirà papà da ricari. Sì. E tu dici, allora io prendo le scale, io ti butto dalle scale. No, va da lì. Ma... Mi dici che sei qua. Non ti muovere, questo bambino. Detto che mi dici facci niente, dopo ha detto se si vede lui allo specchio facci niente, il vero facci niente è lui. Ah, Natalino, Falchetto, allora visto che sta facendo meglio adesso, perché l'ha passato, fa scappa, sa che ti ha tagliato, ha detto me. E anche quello che sei. Guarda neanche fare un bizzetto. E capparoggio. Sì. Mi hanno fatto arrabbiare poco. Oh. Tu già rifugi. Ma lui già... Non è... Già ce l'ha la linguetta, sì, risponde. Sì, già lo credo già. Ecco già, sto parlando vicino al microfono. Meglio o peggio per seno? Non va meglio. Da paroci. E va meglio quando parli vicino a noi siete più forte dalla radio. Da meglio così. E tu appena mi ascolti? Io ti ascolto, riesco a sentirti bene, dai. Sempre mezzo di guerriero, però riesco ad ascoltarti, dai, in qualche maniera. Capa, dai, ripeti. Adesso ci sono i compiti già, vero? me deve farci delle operazioni che ci aveva la sabato, siccome la sabato non va a scuola. Mi ha detto, lasciamelo oggi libero che gioco e poi domani li faccio. Solo che abbiamo una cosa all'altra. Si è preso il cracker, ha cominciato a mangiare il cracker, dopo è venuto qua, insomma. Che si compri si deve portare a scuola. Anche se mi sta portando 9, 10 e già sta andando bene, ma ogni tanto cerca sempre di sviare. Non lo so, se troppo è così già. Perché che non l'ha fatto? Che sono bambini ancora, hanno il coso del gioco, non sanno ancora, non si sono inseriti bene nel mondo della scuola, gli piace ancora giocare, oltre a fare dei compiti gli piace giocare. Non lo so, e purtroppo è ancora bambino. Dai, quando diventa grande, vedrai che più cresce e poi riuscirà a capire, dai. Sì, la maestra ci ha chiamato a chiamarmi l'altro giorno, che ogni tanto si alza in piedi e si mette a dire cose che non c'entrano, non c'escono con la lezione che sta facendo, interrompe la lezione, si è preso questo vizio, si mette a gridare. Perde il casino. E allora l'ho sgridato davanti alla maestra, ha detto che non lo faceva più. Va bene. Ha detto, così si fa. No, ma... Allora devi promettere a me se che fai da bravo. Lui, sembrava lui il più vergognoso di questo mondo. Allora la maestra ha detto, allora me lo prometti che fai da bravo? Lui, sì. Non è vergognoso, no? Furbacchione. E lo sai, te l'ho fatto giù, quindi si caglia molto di modo che non faccia sollevare polverone. Ancora, ma comunque, no, stavo dicendo, ma per ancora vi dà il bacetto alle ragazzine, no? Già gli è passato un po' quel vizietto. Ma ce l'aveva la fidanzatina, veniva a casa, ma era lì che si via zia Marco. E l'altro giorno dice che l'ha lasciata, gli ha detto che non la voleva più. Ah, che bellino. Sì, vabbè. Kappa, quella mi pare un po' emancipata. Kappa. L'importante è che sia sempre, che sempre le ragazzine, eh? Quello è un segno buono, cioè. Ha rubito. Se ne parlava Sinaini, no, di quel fatto. Scappa. Così va benissimo, non bene, no, benissimo. Tanti, Natalino. Natalino è a chi l'ha visto. Avanti, far tutto. Scappa, dai. Niente, Natalino, o si è rovesciato per il Roma, o non lo so. E già, diciamo che sicuramente sta facendo qualche cosa in macchina, boh. Scappa, lasciamolo fare, allora, ogni tanto bisogna operare, capito, già. Eia. Magari se ne è scesa quella sia sigarette, boh. Io sigarette non me li distribuiva, ma sai quanto ne ho fumato? 20 sigarette mi sono fumato tanto. E da quando le ho prese, prima di andare a letto, le ho fumato 20. Coppiate. Ho detto, sigarette non le distribuiva, rimane me le ho fumato 20. Da quando li ho comprati ieri sera, fino a andarmene a letto, 20 sigarette. Cavolo. Quando comincia a fumare un casino. Poi va bene, manco di una bici. Tirate di una labbra dell'altra senza... Magari non è manco gara, mi lo fai proprio per abitudine. È una cosa che sta normalmente da voi. Se me ne metto un'ora l'appetito. Cioè, va la settimana, va in ora a mare. perché per esempio ieri sera mi ha detto che era senza sigarette. Vabbè, vediamo se si è fumato tutta un'ora. È vero. Ero senza sigarette dalla mattina. La mattina le ho finite. E poi non ne avevo altre. Me ne ho prese ieri sera. Cavalcava. E vabbè, è stato un bene perché non ne ho fumato almeno di mattina. Ne avevo una solo. E me l'ho fumata quella lì e poi non ne ho fumato altro. Quello che da poi uno manda tutta una volta, ma poi da che resta di stare faccione che ha detto. Chi è che vuole entrare con te? Tu sì. Ma Petia, ci sei? Che è la cosa del cuore? Cosa? Che è la cosa del cuore? Nessuno ancora. No, mi stavo lamentando che ieri sera. Verso le 9:15 ho comprato un pacchetto di sigarette e ieri notte le avevo finite. No. Vabbè, così non è da. Scusa, non ho capito perché c'era Marco che è entrato a chiedermi una cosa, sta facendo i compiti e mi stava chiedendo una prova. Delle cose, delle divisioni. Come è qua? Fate un casino già. Marco? Dillo. Luca la gava. E se ti sento delle scariche, sento. Scariche? Adesso lì vicino, perché qua non ce n'è altro. Negativo, non è niente. Ecco, dai, tutto bene. Ciao, Luca. Ciao, Luca. Ah, così è. Sì, vabbè. Chiudi la porta. Non sono... Dove sono? Dentro o fuori? Sono qua nel... Fuori qua, dai. Chiudi la porta, io non li sento, sai? Credo. Che bene, fratelli. Avanti, Pomponio. Che bene a tutti, faccia bene. Uè, Pomponio. Pomponio, come sei così basso? Ma sei così basso? Cosa non dite che sto usando? Ti sento basso con questo apparecchio, non lo so se dipende da me o da te. Ma sai che cambia? Ti è attenuato, no? No, questo qui non è attenuato lungo. Tu sei un po' sempre basso, eh? Era più forte dei giorni scorsi, tu? Se vuoi fare un bimbo che te non ritratta. Ho girato l'antenna. Non te l'ha girato? Non lo so questo, ho girato l'antenna. Sì, ma tanto chi c'è di ragli, c'è sempre prestigia, è un'antenna di macchina, uno stilo. Non lo so questo. E comunque qua non è che arriva bene, perché è troppo basso. Quello che vi sto dicendo. La canzone della Zecchina d'Oro. Ma che canzone è? Il lungo, il cotto e il pacioccone. Una guerra busca voi, non usano mai le pistole. Perché lo sceriffo non vuole. Quando arriva il lupo cattivo, te ne vai in paradiso. Bene, Vanessa. Adesso sei Pomponio. Adesso già sono io, già, eh? Mi sente già. Mi sentite bene, sì? Come va? A parogelo. Adesso forte e chiasso. Forte e chiaro qua, D'accordo, d'accordo. Non c'è il sonno? Tu non c'è nulla che leggevo una parola oggi. Poi anche. Non c'è niente aperto. Una parola a terra. Come noi, no, qui è pronto quasi a mangiare, dai. Ce la rendiamo dopo. Ciao! Ciao a tu, ciao, buona chiare, cavo tutto, vai! Ciao! Ciao, anzi, buona carica! E un po', che ci racconti di bello? Che nulla! Che devo dire, racconti tu? Raccontami una barzelletta, non so! Voi? E Gianni chi si è fatto mangiando a Gianni? Anni, mi sei andato a mangiare, dai. Sì, sì. Cava, cava, cava, cava. Come ascolti le coordinate, Bobo? Sette, era di cinque bomba. Cavarocci. E farogero. E tu mangiato, hai, Bobo? Non ho capito, dimmi. Hai mangiato? No, non l'ho mangiato ancora, no. Stavo facendo cosa? Cosa? Una po' di televisione, se ti altro. E mi sono stancato di saltare e con quel malattino stasera. Adesso un'altra cosa più di microfono glielo piazza, come si deve. Farocci. Caffarocero. Sì, tempo di riserva. Il malattino non c'è problema. Domani me lo scendo giù, al centro storico quello, così almeno ce n'è uno e poi c'è l'altro. E poi vai. Utilizzi quello che deve mettere il microfono, lo lascia a casa. Sì, quello che devo mettere il microfono lo lascio qua, appena c'è un po' di vicino disponibile, compro il microfono prefissato, te lo piazzo e noi siamo a posto. Niente, quello è il dirigente qui. Già va bene. È avanti i piani. Perché stavo parlando col figlio, magari, perché stavo facendo i compiti, può darsi anche per quello. Potrebbe anche darsi, c'è il vero. Via, così è, via. È Natalino. Non vedi che l'ha sentito con te. Era quando non c'è la televisione, c'è stato. Caparoggero. E me era, Giulia, e io mi serve a poco, mi serve tutto, e mica crocco. Ti si riduce alle 3:05 del mattino, cosa dite? Cosa ti svegli così presto? Questa è l'abitudine, capito? Quando lavoravo a Udia mi andavo alle 4:30. E tua moglie non ti trova a fare ossa quando ti alzi a quell'ora? No, negativo, non c'è problema. Ah, no, io non ci riesco. Io se mi attorno 5 devo stare girando per forzata, non va a giocare. Anto, sono andato a mangiare, dai. Vado a mandicare, ci sentiamo dopo. Ciao. Sì, ciao dopo. Ciao dopo. Cosa dicendo, Bobbu? Che io se mi attorno 5 ho preso tutta la mattina girando intorno, dentro a casa, detto. Di solito io mi attorno alle 7:30, capito? E caparoggio, no, io a quell'ora mi si sollevano le serrande e sono a posto. Ah, ma quindi questa è un'abitudine che c'hai? No, questa è un'abitudine, capito? E se poi riprendo il moto di alzarmi alle 7, non ce la faccio, ma io a quell'ora adesso ho talmente l'abitudine, capito? A quell'ora lì sono finito. Sì, perché se lavorato adesso, già, perché sei a Udine, no? È positivo, ma questa è l'abitudine di alzarmi a quell'ora, capito? Sì, partire alle 4, arrivavi alle 7:30 in cantiere, e poi la sera riuscivi alle 5, e rientravi alle 8 a casa, così è. E allora, siamo ad oggi. Prendiamo la birra, un bicchiere di birra, mangiavi di quelli sapi, e già morto di sonno. Allora, morto di stanchezza del lavoro, morto di sonno, e facevi a dormire, svegliarti presto, ritornare, capito? Che un tran traera, dai. Sente quanto tempo l'hai fatto? L'ho fatto quasi per un anno, Tutte le mattine, e non solo. Il camion con 7 persone dentro, lo guidavo io, capito? Andate e ritorno. Sì, proprio brutta quella strada, quella di Ordine, mamma mia. Oh, per carità, poi lavoravo in una montagna pure, porca miseria. Ci volevo per arrivare lì che fare un salto a Ordine. Sì, vado in fronte che ho fatto la buona fase, sei fissa adesso fuori. Se la figlia è in quel posto. Gaffa, quello è vero, è importante sia esaltata, difficile, tranquillo e sereno. Via. Già vabbè, purtroppo. E ancora ne abbiamo qui di trabaccare, cocco. Sì, altri 30 anni niente, mi dico. Il minimo, perché io ho poche marchette, ho fatto sempre quasi lavoro in nero. Quanti anni c'hai? 15 anni di marchette? Ma più o meno, va. Sì, ben subito, no? Lo fai. Tu vai in banca, depositi le marchette, sono quasi 100.000 euro di marchette. Patrimonio. Io già lo so, Pompù. Però me ne sono bruciate tanti anni. O per colpa mia, o per colpa del datore del lavoro. Me ne ha bruciato parecchi anni. Sì, adesso quando arrivi a 65 anni fai lo scivolo e le catenate dei vini mi scordano. Fare il tappo cantiere senz'altro, vai e fai solo i controlli. Ti apparoggio. Io non so che quello lavoro di usura, quindi sono arrivato alla città età, 60 anni, oramai non sono fatto un attore, quando sono il capocantiere oppure mangio per i corsi, capito? Fa un altro lavoro tipo di responsabilità per gli altri. Non è che lo metti a fare muratura, no? O è fino alla vicina, a quella età. Beh, anche quello è vero. Avrai anche delle grosse responsabilità, perché devi controllare gli appropriati, controllare i cantieri, capito? Queste palle qua, capito? Ma se riesco a entrare in pensione, se la voglia in quel posto, cantieri e non cantieri, capito? Ah, beh, se riesco a entrare in pensione, prima del previsto, con la minima almeno. No, se riesco. Mi apro di lavoro, di lavorare mi lavoro tanto, però se ce la faccio entrare almeno con la minima, vado tutto quel paese e chiudo battuti, faccio un corso sotto le parenti, li brilli quando esiste. Oramai di diritti sta andando male, sta andando, se le dici tu. C'è un sacco di gente che sta, che non riesce a vendere gli appartamenti. Costruiscono ma non riescono a venderli, non ci sono più soldi. E poi c'è anche questo pastore che la banca non sta tirando in prestiti quasi a nessuno, capito? È ovvio che poi un imprenditore costruisce e non riesce più a vendere appartamenti. Ma è anche la colpa della banca, capito? Le banche che sono, non vogliono dare in prestiti, capito? Sì, se non c'è roba sotto, non tirano nulla. Poco a poco non riesci a vendere appartamenti, non riesci a vendere la loro sequestrata, se li mettono in vendita, e se li mettono loro. Chi è? Stavo in questo io, sì, magari. Ciao Giovanni. Io ne ho fatto da buttare, che ve l'ho preso. Ah, devo male. Ciao. Ah, vale. Mio marito deve essere su letto, si sente che è sdraiato nel letto. Oh, è solo in terra, però no, non ne ho voglia. Ciao. Devo male, buonasera. Ma perché ciao? Grazie di bene. Già, altrettanto, dai, saluto le tue reale. Bene a tu. Cosa bella. Beh, non c'è altra cosa bella che entrare in pensione, fatti niente, fatti giri. Io conosco una coppia di anziani che abitano dove sono trabacando io. Ogni giorno loro sono di arrostimento e ogni giorno escono, se ne vanno al mare, si fanno la sua passeggiatina, rientrano. Si cucina la roba arrosto, chi più ne ha più ne mette, fanno bene là da una parte. Sì, fanno bene, sì, sono che sposati da Giovanni va. Infatti loro sono senza figli, capito? È meglio che si divertono, allora. E da quelle pesce di sotto le mattone delle mie. Sì, a mettersi i nipoti poi. Ti danno un ringraziamento ai nipoti, non funziona, uioia. Sì, lasciamo perdere, va, uioia. Adesso mi periodo che fa ripetere, se non lascia nulla di tutti, lascia la roba dei bambini, lo sai, che li ha puliti anni e anni di lavoro, capito, che deve essere trattati bene. Lo so, purtroppo adesso magari si affeziona alle bananze, capito? Prima c'era la chiesa, avevano tutta la chiesa, adesso c'è queste bananze, capito? Mi fanno l'intestazione, notarile, in caso di morte, tutto il mio avere, tanto la tizia c'è in bruglia, capito? Sì, è vero, ma vabbè, prima ne approfittavamo la chiesa, prima c'era tu, ti davano la benedizione, guarda il signore, quando morirei, mi raccomando, intesti tutto, infatti facevano così. Ce ne erano poca di roba intanto, terreni, case, uiui. Nonostante siano pagati al Vaticano, boh, per me è una questione anche di ladri, perché non si può, tu all'anziana, cioè, ma non so fino a che punto ho capito. Ma c'è i ladri, questi tritti, non lo so. Sì, io mi ci stavo dando. I cosi si difendono, insomma. Quando ci andiamo si concertano e si fanno manovra. Io ho conosciuto tanto questi con 100 milioni di euro, ho detto a casa, no, c'era una lira. Oh no, non mangiare, tutto regali dei cosi, delle vecchiette, capisci, se non capivano l'accidente. Allora, loro ti danno la benedizione e dicono armatevi, partite come ci attappano. Sì, a me è stato sì, perché ha poco da prendermi. Lo voglio usare. Sì, altrettanto prenderà me, aspetta, via casa di prego, fai con un brindisi. Sì, ne avevo conosciuto uno, che lo ricordi, tanto tempo fa che stava a Baracchino. Dici, era un prete. E andava anche in discoteca addirittura, mi ricordo di tutto, c'era la macchina e vicino era, andava appena a chiesa e poi diventava a casa sua e c'era lo stipendio, pare che era 1.200.000 lire che mi ha pagato, una cosa del genere. Capo, ma quelli sono pagati dal Vaticano, capito? Loro sono pagati dal Papa. Più hanno tutti gli incentivi che gli danno la gente che tra chiesa, capito? Le offerte, compagnia bella. E ci hanno conosciuto anch'io quel prete che stai dicendo tu già. Sì, capo, già c'erano queste chiese che ci sono assassate. Ma c'è due soldi che siamo così spesa, perché sono per le chiese che sono chiuse, perché c'è un diacritico che è tutto quanto un po' posciumare. Quindi spese ce ne sono, perché ormai per i culturali c'hanno pochi soldi e non vogliono ristrutturare nulla, tutto bene il comune. Quindi il prete dice, a me la volta prendiamo il figlio mio a sistemare la chiesa. Spese un attimo e me lo vanno in un'altra chiesa. Ormai la cosa è quella. Capazzata, lì non è così, non funziona così, no. Lì interviene il Papa, capito, il Vaticano, e se la Chiesa la mette a posto, la mette a posto loro, il prete non mette neanche una lira alla tasca. Ma che domani è lunedì? Ciao Fra. Ma che domani è lunedì? Ciao Fra. Ciao a tutti. Gappa, a Darbiene Meda, di lavoro state parlando, di preti. Di lavoro, di preti, un po' di tutto, dai, di tirare di preti, di questa massa di cani, poi dico, di questi cani sono mangiati di tutto. Allora, ma vedi che se lo Vaticano si non vuole appostare, ci siamo qui, ci ho pagato, vedi dove si stava Vaticano, e tu ci ho pagato da via tirare via Francisca, l'ho preso, con la cosa che ho offerte. Beh, allora, te la faccio in dura, Io dico, cazzo, mi truffano le rubrini, va per te. La sembra per lì, va, riprendi con fuoco. C'è una chiesa vicino a dove abitavo io, è abbandonato, che è ancora abbandonata, è stata aperta a tutti. Per lui, mi ha assistito, lì, mi ha abbandonato, non c'è manco un prete. Tutto un verbo, perché il catolico non funziona. Per te, purtroppo, è un casino, non stanno girando soldi, se non girano soldi è così, capito? Ehi, lo qua mi ha piacere da pure tutto sotto terra, Ghibi, te l'hanno preso. Poi tutto sotto terra, ma sai loro che vanno sotto terra lì a Roma, oi? Ehi, ma lo posso immaginare, guarda. Stiamo dicendo che c'è da sfamare tutto il pianeta, con loro che hanno loro, basta asciugarlo e sfamano tutto il pianeta. Giulia, che ci vuoi fare, che ci vuoi fare, che vuoi fare? E tu hai stato lavorando ancora? No, ho venduto. Ho chiesto e non c'è nulla da fare. Capito? Manco per chi non ti vogliono, perché ci vogliono ragazzi di bella presenza per fare il becchino. Quello che c'è un mestiere, e poi la bello qua, pure. Sì, ci vuole anche il fegato. Perché quando raccogli qualcuno a pezzi da un incidente, come da rete, io mi sono perso quando, tanto tempo fa, quando andavo a fare i recuperi, a pezzi sto dicendo io me ne rimanevo in macchina, perché non c'avevo neanche quasi di scendere a treno raccogliendo pezzi di braccia, pezzi di gambe. Ma posso immaginare. Però è un lavoro come un altro. gli organi da terra dall'incidente, ci vuole fregato veramente. Oh, lui. Per loro è una cosa naturale, è come il becchino quando leva le ossa dalla bara, capito? È tutto lavoro, capito? Oggi purtroppo è difficile anche entrare sia becchino sia anche le turbino, senza toccare il discorso del cimitero, dai. Ci vogliono sempre scarpe 48-50. Papà. Purtroppo se non sei contratto non entri da nessuna parte, non c'è niente da fare. Vero, è vero, ma tutte le cose è così, Artù. No, da tutte le parti è così, non solo qua in Sardegna, ti posso dire anche in continente è così. Tutto un giro, per carità, siamo. E molte volte tu vai con la bustarella e riesci a entrare, capito? Se non c'è quello, la spinta, non vai proprio da nessuna parte. Poi questi stipendi che danno sono una miseria, tu, che euro. È una bruttitura. Quando io prendo 1.420, 1.390, non bastano mai. Questi euro è una fregatura. Quando prima con la lira ci avevamo le mutande, che riuscivamo a tenerci anche le mutande, adesso con l'euro ce la siamo attenti, anche le mutande perdiamo. È proprio vero, così è proprio. Beh, domani c'è la pubblicità di Lido, gira, va, andiamo a Lido, facciamo la gara, in un minuto dobbiamo fare la spesa grande. Figurati. Mettiamo d'accordo, due carretti, io adesso sulla sinistra mi capisco i carretti. No. Vabbè, mi pare che tu non andare, ma non è peggio di quello dell'anno scorso quest'anno. Capaccia, papà. E guarda, stiamo andando peggio rendi, stiamo andando peggio rendi. E lui se vai va, se fa rendi, arriva agli arizzani, chi tutti i signori delle fabbriche, a Porto Torre e compagnia. Lui sarà la crisi, altro che Babbo Natale, o aiuto. No. Invece c'è un po' di crisi, ma un po' di crisi. Adesso figurati noi bene o male tiriamo avanti. Ma tu renditi conto, Antù, in continente, canta niente, lei morendo di fame. Dura, le poi in casa da grazione ha delle due piccoli e te le cudine pure, ma dimmi tu avanti, come ti fai un babbo di famiglia a campare la famiglia, dimmi tu come ti fai uno, ma tu sei costretto ad andare a furare uno. E poi ti chiede è andato a furare perché, quando lui è andato a rubare perché è andato a buscarsi la pagnotta, mica è andato a rubare così. Se soldi non ce ne sono, cosa fa? Da si ammazza uno. Allora, per carità, guarda, ci stanno mettendo in condizioni veramente critiche, guarda. Facciamo schifo, schifo veramente. Ti posso dire una cosa, io, i cinesi non comprendono tutto Sassari. Cagliari, Romatesi, Oristano, tutto la tua vita lo compare. Fra poco di Cudalani ancora pure a noi, vedrai. E succederà così. E come ti fate le dita a boccarsi tutte le cide a capo. Ma te rendi conto, chi sarebbe andato mezzo Sassari sarebbe andato a salire. E sono sempre comparenti. Mezzo Sassari, si può dire quasi tutto Sassari. Ma tu, a vedere via la Marmora, via Rosello, facciamo tutti quei negozi che vendevano jeans, ma fai più nessuno, tutto cinese, cioè, ma ti rendi conto? È vero, già, per carità, già sarà diventato un popolo cinese. Farà diventare, è già diventato, ma farà diventare. Tu la vale a dire, aveva ragione, Branco, fra un poco ti cudini pure a noi, burro dai occhi. Ci sono comparendo di tutto e continueranno a comprarci tutto. Perché il cinese, ricordate una cosa, Antonio, non è una persona, è una persona un ben intelligente, capito? E con il suo con la lira ci sa fare. Ehi, già lo sono bene, già. Ma non arriva il contante, l'hai capito? Ora va per la borsetta, canto voi, tu, che va, io dammi un negozio. Allora, canto voi, 300 milioni, tu, 150 milioni di euro, brutto, apri la parigia e ti ridate. Ah no, non c'è dei buoni problemi, no, ma io giro di mafia, su quelle cose lì. Tu cosa è, però, so che ci sono comparendo tutto il sasso. Fra poco si compare gli arani bururi e ce la faccio nei negozi. Chi è che vuole entrare? Ciao Luca, buonasera. Ciao Luca, buonasera, ben sentito. Sì, in quotidiano c'era già la chiesa, ci hanno comprato le chiese, caro. Antonè, hai deve considerare una cosa, che mi sono visto che travaglia nel negozio, e mi sono visto che fate altri travagli, è buro me. Sì, io lo so, guarda che ci fanno bambini, di tutto fanno. E non parlano mai, nessuno sa niente, non parlano con nessuno. Figurati, si fanno i fatti loro, non ci hanno contatti per niente con noi, solo esclusivamente quando diventa l'evento. Quant'è e quanto a noi ti dicono in faccia, però a parlare con te nulla, non va manco a aprirsi, nulla, non si aprono, non venire, e gente di Firenze. Ma già sa aprire quelli di Napoli, di là, sai con i soldi come si aprono bene? Sì, vabbè, che vendono bene, ma ci sono questi senegalesi che comprano la roba, perché siamo noi, che la compriamo sempre le sue porcherie, so. Però intanto, come se la vendono, stanno appena usando i negozi nuovi. Nella mamma è tutto pieno, dove c'era Mitos, con la gente di Way, tutto già venduto. Guarda, Bicciuccio, Yokongo, Cina Mercato, Mare in Cina, la Cina dell'abbigliamento, cazzo mi ne è poco, per carità, va. Sono altri due che vendono stampe, dove c'è il discorso, dove c'è la scuola di dire, figurati tu, lui vendono stampe. Giulia, me la butta a sciacchi il pantalone e baghi di zero, però pare elegante di zero, me. Sì, due mesi di zero, lavora la parte, dura la parte, non serve se che si apre il due. Cerca le biglietti di rampe, non andate a cannavazzo. Chissà quanto è dentro la parte di riflessazione, con cemento, con carta, poco il cemento micidiale con gli la mangia, l'acido lo stesso nel cemento. Allora, vediamo se c'è... Luca, riprendi tu, là, perché stiamo parlando di Cina Mercato. Città dell'abbigliamento, ti vuole? Ferizoma, pantaloncini, sciabate e tutto. Iuia, e cosa vale roba buona, io c'è tutta montezza. Dopo ci sono entrato così, andato a fare un giro. A vedere cosa vera. Già, beh, il pantalone, il durante, quella vita che era dentro lo spogliatoio e passi. Ma me la pura. E vabbè, mi vedi giù, E lì ti rimutanti, non ti piace, non ti la voce, chitta. Mi sono piccoli, più grandi di queste montagne, vabbè. No, qua c'è tutta una misura, sì, ma chi se ne, tutto una te. E poi tutti i compagni un paio di montagne, chi se ne, non t'entrani. E tu ti sei tutta una misura, capisci? Tu mi dici i cazzetti, non vedi né numero né nulla. 40, 40, 50, ne vai. Tanto sono i versacci. E uscivano i pantaloni. I pantaloni, ma te, chi c'è le? Le misure non sta bene, beh, sono in me. Cazzo, il collega mio da qui è farato a comprarsi un maglione. Allora ce l'ha misurato, in officina, no? Tanto il rubone va via, le mani, va via a mezzo di maniche, ha detto, ma ce l'hai comparato? Tu non ce l'hai comparato un maglione, guarda, tu l'hai comparato una maglietta estiva. E dove c'era il motocicletto? Ma poi il pantalone ci rimane la fattrice, a tre quarti diventa, e poi il pantalone la truffa. Tu sai che parte di tutto questa cosa con il gruppo rame delle gatti. Che si benedicono, allora senti cosa facevano? Che ammazzavano i gatti per prendersi le pellicce. Ma io sono quella più la gatta a Sassari. Allora a me ne sono convenendo qualcuna in giro, qualcuna. Che tu stai a fare a pigliare di terra, oh yeah. E nessuno, che stai a... tutti mangiare, arrivato a mangiare, che di graziare hanno fatto mangiare, che si è ristorato, i cinesi, la carne variata. No, per carità, vabbè che mangiare quei pacchetti, ma comunque si trattano. Ma ora sono andato a mangiare, sono ritornato in cinese con un amico mio, gatto, se sta a ricercare, e mi vuole i pacchetti, chi? Io volevo la bucchetta, ma mangiare la pasta asciutta. Oh, ma quello mi ha detto, pure i pacchetti, pure i pacchetti, non mi ha mangiato roba pure i pacchetti. Allucinante, hai capito? Vabbè, riprendi, tanto che vado a mangiarmi una cosa, riprendo dopo, va. E capo, capo, buona carica, frate, se ne aspettiamo dopo. Sì, capo, che è? Buonasera, già di doppio numero ripreso, va. Comunque, anche ci sono i televisori, ci sono i stereo, che fanno anche i televisori cinesi, e non comprano con molto. D'accordo. Mi si mettono 200 euro. Cos'è di stereo altrove? La stessa che macchina, fanno da stessa TV, stereo, DVD, e come capo si chiama il... Quello che le accende una volta poi se lo deve buttare. Ma sembra che continuano bene, poi non lo so, ancora non ho visto. Dunque ci sono. Ah beh, ci sono capito, ci sono più video che c'è di niente. Ne ho visto un paio, costano 80 euro iniziano per pulci, fare che so. Ma cacchi rende. Quando va a gestare ti chiedo l'abbia un bacone. Perché non ci sono componenti qua, avanti. E avanti Gianni. Ehi dai, adesso da media volta ci sono i televisori belli, 32 pollici, a prezzi stracciati. Molto belli, si vede molto bene. E poi dovrei aver comprato pure i cinesi già, pure i kiwi, e fallendi. Kappa. Vabbè. Ah, vero, cosa? Media volta? Media volta. Cosa? Ci salva! Ci salva lo stesso! E quello sta vendendo tutto! Ci salva media uovo, dai salva! Chi si ricompare di pubblicità al mercato di TV, da vanno a far carica batteria, ci sentiamo dopo, ciao! Ciao ciao, ciao! Ho carica! I cinesi stanno invadendo tutto il campo! La Firenze si deve pure a nulla! Faccia rimpatriarli tutti e non pensa più a nessuno, e vedendo e non si chiama a nessuno pura. Io non gli faccio entrare a nessuno, ma a nessuno pure più però a me. Se hai un paio paesi due a rompere i coglioni. Ciao Natali. lo so Natali, e noi quando emigravamo in Germania allora ci dovevamo trattare così. No, ci vuole, diciamo, vuol fatto con discrezione, una parte, si può, una piccola parte, ma non deve essere il territorio invaso di questa gente qua. Non che sia razzista, però si stanno comprando tutto, stanno rovinando il mercato qua, è un casino. Infatti, e noi li serve, manco per i coglioni, a nessuno. Ma tu c'è, mi stai prendendo questa cosa, con fuoco. Due, domandami come si chiama di Gialli. Che sei con uomane? Io un arancio e un mandarino mi ho mangiato adesso. Ci metti io, ma proprio più stremato oggi, mamma mia. Uno che sono quelli di LD, i mandarini, cazzo che buoni, tutti dopo. Gli ti mangi di caratteri sono dolci, miele, buoni, buoni. E che mi ha regalato un poco? Ragazzi, un po' di limone e un po' di mandarini, ma buoni veramente già, buoni, dolci, dolci. Ah, di quelli campagna. Certo che non sono clementini questi, dolci, dolci. Anche se io preferisco il sapore del mandarino, il mandarino proprio originale, se sta incrociato. Sono buono qui, ma buoni. Lo so, sono dolci, dolci, già lo so, lo so. E io mi ho mangiato anche un arancio Washington che era bello dolce, buono proprio. Me l'ho mangiato tanto non posso mangiare altro, cioè può mangiare di insalata, una fettina, e una frutta, una, due frutte, così proprio, e basta. Lui gli va a pensare a un po' di calore, e vabbè, ci vuole approfittarci, munia qua, via. Un po' di calore, uno lì, gli piace i blusè, gli piace, si tira una mossa, gli piace anche tre, tanto ci ha messo due e due di, ma. Ti senti un rumore strano, strano. Aspetta, le computer, può essere. Sicuramente è quello, rumore di vento dovrebbe essere. Ma c'è sulle ginocchia, sulle gambe, dai, il computer. Perché questo momento sopra il letto, poi dopo puoi fumare la schiena. Lo metto sul tavolo, anche in cucina. Sul tavolo, in cucina, c'è tutto lo spazio del buio. Gaffa, gaffa. E via, casino, sta a vedere, faccio la pulizia, vediamo un po' se non sta andando male, un po' di vento. Troppa roba ci cade, chiudo, troppa canzone. Vedi, c'era la ruota di Alghero, invece che sul 15 era sul 14. E c'erano tutti i vecchi, dei vecchi cibi di Alghero, Carlo, Cavallino, Cavallino ridendica, quando ti contagia. Non ridi, ma non avvenne. Ha la voce un bel fine, ma non tocca, è grosso come persona, vero? Ma c'è su Facebook, c'è la foto. Mi hai messo come Cavallino. Com'è grosso, no? Aspetta, non me lo ricordo. Carmelo? Tu sei un pugnone, no? Vabbè. Cappa. Hanno detto che è grosso, però ha la voce di ragazzino. Perché con il cammino finito, no? Dov'è? Tutto sono un mezzo. Fa un mese e mezzo mi viene detto più normale. Ci cosa sento io? Tu già aiuti su video oggi campagna, mamma mia. E meno male, guarda, meno male che arrivato qua a mangiare. Siccome era il compleanno del questo tipo, no? Del fratello. Cioè il fratello, la figlia piccolina era il compleanno suo. E siamo andati di tramezzini, pizzette. E ha messo sopra questa cucina che fa della stufa a legna. E la scaldate, ma mai c'era la roba lì, ma c'era uguale, qua. Mi avrebbe distrutto. E ne ho bevuto poco. Però mi sono bevuto un bicchiere di birra. Ma cosa ha movimento di noi, ma è? Qua crimato. Di dov'era? Che cosa? Del vino. Questo vino è di zona di Cattamona, uno che fa, lo fa lì. Aspetta, ma ha detto poi sono ricco. Dice che ne prendo un bel 2,50 al litro, bianco, ma burro. No, a me il bianco non lo bevo proprio il bianco. Il bianco mi piace un mosciato. Lui già mi piace, mi piglia la bocca, la buia, mi piace un bel. No, mi piace proprio il rosso, a me. Proprio il rosso, rosso, cannonavo, vedi. Cappa, cappa. Che vuoi che ti dica? Oh, che casino, va. Che casino. Vai, Francos. Franco si è ammandicato. Va me la sete puro. Un po' qui ci faccio, un po' qui ci faccio. È vero, va bene. C'è un po' come, non ci vuoi fare. Ti sei abbassato di tutto. Se non basta sta cosa. Non ti sei scossato, l'ho fatto alto. Adesso alto. Bene, va. E beh, se lo fa come ti riusci che ho troppo nuda. Adesso va bene, va bene. Va bene. Sì, lascialo così che va bene. No, io mi ho mangiato, già. Così non vi penso subire. Così ho tutto il tempo di digerire, perché sennò la notte mi rimane sto peso sullo stomaco ultimamente. Vabbè, perché c'è influenza strana, che c'è un virus che ti piglia dolore di gambo vuoto, ti ha mal di pancia, ti fa venire aria proprio da crepare, da gonfiarti proprio forte la pancia, tipo coliche, e poi non riesci manco a respirare bene. Allora basta. Ehi, ma basta, ma a grumi bisogna mangiare per noi. E io mi un arancio, cioè un mandarino, ma mangia pigliando a me, io gli ho buttato. Poi c'era Piantavo lo stesso. E piglia un po' Gattuglie. Sta malato di girare, c'è la Gladiviana, avanti ieri, oggi, perché ti lascia la nausea, capito? Ma io ancora mi sono andato un po' di contatto con la luce. servizio riferito, signorino, eh? E non tanto, se non me la cucina io, se non me la cucina io, e quindi... mi stava accendendo il fuoco, quando l'ho accendendo io, tanto che c'era lì, che stava cucinando lì, in terrazzo, e mi era giù lì, se l'ha cucinata. Fatto bene, bene. Anche perché la linea era tua, quindi ne è usufruito. Infatti, sono pure la mia regna, poi tutta la mia mare, chi era mio che trattavano con i nudi. Visto, c'era la volpe che andava a furare la regna. E arrivo che ti trattano, bello. Sì, e cosa vuoi fare? Se ne devi capire già gli altri, diamo da tagliare. E non lo vediamo. Vabbè. Lucrezia. Adesso la cagnoletta sta tremando, vero dottore? Mi sta tremando l'una, saluta Gianni, saluta. Saluta. Cazzo. Ha pensicato la... Che disgraziato, dice, va, sta ancora lì. Mi ha costumato un osso, non l'avessi più fatto a pizzicarla, che si aveva la lunare. Male questo qua. Cazzi, l'ho fatta incazzare, l'ho presa... sai, per... sotto la mano lì, che dice a voli, no, secondo Moratti, no. Si è incazzata, ma ha aggrattato la mano. Adesso, ma era la stretto. Mi sa neanche tu aveva la mano tagliato. Però non sto in nuovo i padroni, però se lo pagano di quella gli arriva in aprile, va. Se te lo sto dicendo, sei incazzata mia, ha ragione, però se lo faccio arrabbiare. Ma casino, ma comunque è già... Sei brava, non è, davvero non è, brava la gente, mi ha Gianni, ti picchia Gianni, tanto ti fa Gianni. È furba, è molto, molto furba. Lascia male il bagnetto, li fa, vero? La profumo tutta, poi di volotalco, di onesto. No, il bagnetto li lavo bene, è volotalco. Rimane un pochino di profumata. E anche io li facevo così a tizi, a tizi. Mettevo il volotalco. Quando la abitava in bagno, sì, che bello odore questo letto. Il cesura. No, io è meglio Robert, il volotalco, secondo me. Come a tu, cazzo, il cucinetto tra la pasta e la bagna, bene. Non lo chiedo. Duriava, era un rubinetto. Era un cucinetto, lo duravavi. Pasca la bagna. Era allora. Tu lui dove lo lavi? Vabbè. Ho detto a Luca, dov'è che lo lavi, lo lavi? Dentro la macinella, già. E poi lo butto nel gabinetto. Vabbè, così ce va bene. E ci sta. La buglia, è questo cucurullo dentro. Dì chi ti mandi, dai. E a lui le piace pure far studi. Diciamo che la palla non mi fa studi, ma asciugarla. No, non ti. Ti posso vedere le fotografie, ti si mette lui in posa per asciugarla, con l'asciugacapite. Alza le zampe, si mette a faccia all'aria, fa tutte le pose lui. Pure il cane di povero Franco faccio così. Fa la città pura, non ce la fa più. Fa la zampa, fa... per asciugare sotto alle stelle. Ma tu non mi vedi. Invece chi tu fa la ragione, chi tu fa un carattere, un risultato per me. Infatti il cazzo io la assicuravo al coso. O se non puri, che non lavoravo la coppa. Fa... Uiau, bene, guarda, Titti è abituato da piccolino a essere lavato, perché il gatto teme un bell'acqua. Però l'unica cosa che la gente non sa è che l'acqua al gatto va messa bassa, non va molto, molto alta, perché se la vede alta teme. Ma una volta che gli faccio la doccia così tutto quanto, tranquillamente, non se lo fa fare. Poi dopo che si stufa un po' se ne vuole uscire, dopo che non l'ha fatto per un bel po', perché io li metto due o tre volte lo shampoo, quando lo lavo una volta ogni tanto, però non è che lo lavo spesso. Perché il gatto si lava già da solo, capito? Diciamo che lo lavo io sta qua, con lo shampoo Pantene. dici, morbida, morbida, morbida. E forse che se mi noventa, prova a un cane come te Romeo. Guarda, guarda, io non amo con il tema di carizia, Romeo. Non sarebbe il cane per i cani, ma non di questo piazza di pelle. Purtroppo questi cani piccoli Gianni, io dicevo, vabbè, anche altri tipi di cani dopo un po' puzzano. Ma comunque la mia cerco di non farla puzzare più di tanto. Metto un po' l'attacco, la spazio, la pettino, c'è un pettino suo, rimane pulita. E puzzano perché? Perché hanno la littusi, magari si leccano il pelo e glielo puzza la littusi che ha. No, no, no, proprio il tipo del cane, c'è tutto l'essere. Non lo sapevo. Allora, le dette giù, cane. Mia nonna, come sentiamo mamma? Mia nonna. Hai ci dritti dritti, dov'è nonna? Dov'è la nonna? Io, mia nonna, io. Dov'è nonna? E invece c'è mamma. Ci vediamo la porta, siamo la mamma. A lei mi piace piace uno. Sì, ormai sì, guarda ci dico tutti. Se capita, mai lo porto la Roberta, no? E mi dice, dove è il cane, la Roberta? Oh, da via Lugoni! Beh, perché ti affezioni qui alla fine, no? Quando vedono che è affettuoso, che è bravo, che non mosca nessuno, ti affezioni. Ma poi ne fai una malattia, ti diventa un picchioso, vabbè. Vabbè, il microchip ce l'ha. Sì, e comunque questo tipo, anche, vabbè, questa non gli puzza la bocca, perché i denti ce li ha. E poi non le do schifezze, capito già? Io sempre spogliare la solita cosa. Guarda, se la fa questo cane. Questo cane, allora, l'hanno abituata così loro, perché io mai. Quando si nasconde, anche nell'una, lui non esce. È un casino. Non esce proprio, non se lo sta sotto il letto, tutto qua. Lui tiene lo zucchero. Vuoi sentire, tiene lo zucchero, non ti arrivi. Impicchiata. Che l'onfia. E tu cosa gli dai da mangiare? Mangimino che cosa? Roba di casa? No, carne macinata con cose gli do, riso, bollito, cucinato con l'acqua. E così il sapore, senza sale, senza nulla. No, una buccia di sale gliela metto. E basta non mangiare, solo quello lì. La mela, cacco, frutta, magari non le mangia. Poi mi meno grano gli piace. E vedere le cose. Pura brutta mi dai, signorino. Sì, alla mia, a chi sta per fare anche bravino, mi dà un po' di venettini, mi dà i fissi bianchi, i fissi di piazzia. Paga. No, il mio, quello che c'è a casa, mangiava pasta asciutta, fregatini di pollo, tutte queste cose qua. Tu mi mangi, chi si mangia io, mangia Edu. La giù fatto pure la pasta Edu. Chi si mangia io, mangia Edu. Mangia Edu. E ma deve essere così in campagna poi. Che mi sono abitati così altura, te lo ricordo, lo tiro. Però c'era qualche pollaio, non c'era qualche uovo magari sgrigiato così, e rimetteva le uova in mezzo, pane duro, acqua calda, scioglieva il pane duro e l'acqua calda, faceva un pastone, formaggio e tutti gli avanzi della roba che avanzava a tavola. Tutti in mezzo, dopo li cuglia in terra, a voglia che li mangiava. No, che se mi intrego che non mangia io, ma prendi il tuo inquilino, fa più conto, un trattore ma niente. Diciamo che diciamo che se uno li abitua da piccoli mangiano di tutto. Anzi sono meno di quello che gli fa male allo stomaco, che qua, gastrite là. Ma se sono abituati è più insano. Per me il veterinario ormai interessante è che non sia piccante, che sia fatto in fondo il suo, che non sia roba proprio forte, se no dice non li fa di nulla. Avanti per qua, mi sembra tutto. No, io volevo dire che la fatta c'è qua. non mi dirà che è vicino. Pesce dell'oceano, poi il tacchino, mandro, un po' di tutto. Ehi, sono pesce. Guarda, mia madre, io non mi mangio pesce come tu sai, ma mia madre sì. E si compra di quelle lattine, no? E una se la compra solo per lei, se la mangia lei, però non è pulita, pulita è la polpa, la cosa come mangia. La se la mangia lei è tria. No, senti, la gusta, sì, la mangia, ma ne gusta, ne sentito, poi se ne dai una troppetta non ne mangia. Bene, pollo e pesce a volta, e poi no, gli dici anche per il patrocinio di pesce. Bene, le mangia tranquillamente. Poi cosa, la differenza fra, per esempio, i, come stavo, i viuster, sono i viuster di pollo, e i viuster di maiale, quello di maiale non lo mangia, quello di pollo sì. Vabbè, da un fiato, un fiato. Se non mi sei trasformato, ma se non me la gente che mi pare di questo uguale, ma io non lo mangio quasi mai. Io l'ho provato a gustare, mi sembrava lo stesso sapore, bro. E poi si compra da quello di pollo. E mangia quello di pollo, li prego, Ehi. Quelli di pollo che a casa mangiamo, non ne mangiamo di maiale, sono più sani quelli di pollo. I maiali già sono più saporiti, a volte la qualche... Eccomi qua. Cavagava. Aspetta, i maiali sono più saporiti per fa. A me non piacciono io l'altro di assaggio, ma no, non è che mi piacciono. Sono ben pesanti, ma già sono buoni. Ecco, non ne mangio molto, così qualcuno. Vogliono mangiarti col ketchup, le patatine dentro il panino, vedi se sono buoni. Ketchup è collocato, passate il pantalone. Niente, non la taglio. No, il ketchup si mette a temperatura ambiente, bollente con il panino e giusto. No, volete, vuole il ketchup, che è così, che cazzo fa bene a culo. Allora. Beh, per pa. La risposta è data tra l'altro. Fischia, volete la mia farmacia per questo, come si cazzo di chiama, che sviluppa un'altra cosa. Hai gente, come si cazzo. Che critico che mi hanno fatto su preparazione H. Si dice il po' del bruciore. L'emorroide è quello lì. Ma ha detto anche. Anche, ma non ci vado, se non mi dà qua. Perché vogliamo ancora rimuovermi. Figuriamoci se va a vedere, adesso in macchina. Lui ha. Sembra una ciambellina. Gente. Adesso ho disteso di fiacco adesso. Non so, so cose che hanno provato un po' tutti forse. Il Natalino forse ne sa qualche cosa. Natalino è scomparso, sai cosa è successo. Farchitto. Dici non è che scompare, mi lasciate, ragazzi. È in terra. E allora, per forza. E dove volete che scomparlo? Si dice spazzare, non scappare. Ma americani proprio. Ma fai tu, cane? Cosa? Ma che cosa fai tu? Con la scopa. E allora? Si dice spazzare però, perché scappare è una parola ambigua. No, non è ambigua. Uno usa la scopa per scappare. Ma siccome Natalina di chi si vuoi, io la giù compresa al volo. Ma cosa? Tu sei poc'uomane, secondo me sei poc'uomane. Lui l'ha detto di modo che noi intendessimo che stava facendo altro, però non è andata. Il rispetto del problema, la scoppa è male, non la scoppa, no? casa in giù, sempre cazzo, ne ricamare di mezzo, sempre, sempre in ora, giusto, cazzo, è proprio l'occhio. Sì, uno, ma l'anno, continua così a spazzare, non sa di fare. Là, ci ha finito. Non ha finito, ancora, dimmi. C'era anche Falchitto. Falchitto? La gara. Sì, sempre dal microfono e avvicini la bocca, che non la sento. Ho detto KK, ja, va bene, dai. Ogni tanto scopolare ja, va bene. Allora, la capezzina, sì, ja, senti, se vuoi. Si intende? La capezzina, sì. Ah, lui devo dire che troppo attaccata alla bocca, caldoso. Tu devi far finta che sia una bella femmina che te la sia ci prendi, tu sì devi fare. Dai, tanto è bello. Riuscire a Roma con più bene, la porra e fammi di bene. KK. Pierino, Pierino. Cambiamo. Ma allora, ordiniamo questo coso. Ja, te l'ho detto. Ma te l'ho detto per tutto il pieno. Ma domani lo ordiniamo. Fammi prendere i soldi prima. Ma così è. Ebbene, te l'ho detto. Va bene. Fammi ordini, capisci a me? Io ho capito. Oggi. Buonasera a tutti. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Ma sono rientrato. Ma ti abbiamo sentito. Cosa fissa in fronte? No! avanti. Eia, sempre, sempre. Chi vuole? Ma non sentivi Natali. Pirino, no, non ci arrivava qua, dai. Era incomprensibile. Non portarle. E Magliani si è consigliato a burro l'antenna che era Rubiago. Gianni, raccontate qui la voce che si è mandato a piccare qualchetto. Raccontami io. No, raccontami i due, si chiama me ne cappa la risa. Perché lasciate che siamo andati a pescare anche se sono di Natalino? No, non la so, racconta. Siamo passati dall'apparato, c'erano quelli che si alimentavano, quelli piccoli di una volta, no? Si pigliava un profumo di mortadella, ma sta lì, e io che si bevo i panini e si pigliamo, c'è panini e un paio di mortadella, 3-4 etti, là. E se andiamo lì questa mortadella profumata, finiamo lo corso e apriamo i panini, un chitacca, altri due sacco, che andavi lì, e cominciamo a fare i panini. Se le pigliamo a capo, mangiamo lo panino, lo abbondiamo un poco, cominciamo a talino, e era un cane con un padrone, e si abbacciava, cazzo, dopo poi dice, un altro, e lui che sciucava, cazzo, io la pelle ho bisciato e risa. Ma la finita, devi essere messo a prendere il sommo. E quello di fare porto cose all'inizio, proprio, quasi vicino al fornitore, un po' prima di quel bar, dai. Ma dopo il bar? Dopo, boh. Sì, ma c'è cosa, non lui aveva. Io dico se l'ha pensato, tu il tutto, ci saranno stati minimo 70 kg. Ah, ho esagerato. Sì, cazzo, poi ha. Sì, solo come di nella bilancia va. Mi ha mai da anche un mese, quindi togli il peso e sei contento. Mi sento tu. Mi troppo alto, poco a poco sentivo bene. Gava gava, va bene così, va bene. Prima che non mi senti più, ti auguro buonanotte. Cariello, buonanotte, ma ce l'hai. Ancora no, sta cercando il telefono. Signori, URIT da parte mia, dai. Buon trabacco per domani, tutte le prossime. Ciao ciao. Le prossimine, ciao, buonanotte, buon trabacco per domani. Salutatemi a Gianni quando entra. Buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte. Buonanotte, vai. Vediamo tutto domani. Comunque lì c'è scritto così. 27 MHz, impedenza massima 1000, lunghezza 4, poi 40 kg, peso 40 kg, a questo puntino il punto l'ha messo prima del 40 per fa. Peso 40 kg, te lo vengo io direttamente da qua. Frequenza 27 MHz, impedenza 50 ohm, SVR centrobanda 1.1, potenza massima 1000 watt, lunghezza 4,40 metri, peso 1 kg, stilo in alluminio anticoradiale da 14, 12, 10, 8 mm, smontabile in due parti. Radiale, quattro radiali in fibra di vetro con conduttore spiralizzato, guadagno relativo 5 dB, connettore a 2,39 con compricollettore, base materiale termoindurente, è completamente stagna, resistenza al vento 150 km orari, montaggio a palo sostegno da 25 mm. Però non dice se è 5 ottavi, se è un quarto d'onda, se è mezz'onda, non te lo dice quello. 5 ottavi, sì, 5 ottavi. È proprio scritto per me. Ah, aspetta. C'ha il coso, c'ha il cappuccetto. C'è il materiale della mano, ma dai. C'è anche quel ragnetto sopra. I materiali sono uguali, solo che fatto diversamente. Magari il materiale più leggero, in modo un po' più leggero dell'altra. Già, però Sigma. Sì, quello l'avevo appurato. Voglio andare a vederla poi sul computer. Dove l'avete trovata? Su Tecnocomunicazione? La vedeva, trovavo la foto. Se volete, se mandate a trovarlo. E va bene, se lo vado sul computer la vedo lì. No problem. KK. Perché voglio vedere com'è, capito? Se è un'antenna leggera, se è ben fatta, buh. Quarto d'onda. Ho visto che non è 5 ottavi. Proprio come la Grand Prix. Come la Grand Prix però è fatta un po' diversa, vai. Mentre la via la Grand Prix ce l'ha in alluminio, invece qui ce l'ha in un altro materiale. Fibra di vetro resistono un po' di più. Vabbè, ma come potenza io sto parlando, non è una 5 ottavi, è un 2. Tu sei andato una 5 ottavi, allora sì. Già vabbè, lo stesso. Lo so. Perché si accontenta, sì. Ma se vuole deve andare fuori, per dire, non rende come una 5 ottavi, ecco, quello lì è per la città, vabbè. Sì, arrendi. Sì, adesso per dire, a Plattamona già con la Grand Prix non lo sentivo più. Dipende sempre come la posizioni, se la posizioni bene, lo senti, è come, se te lo metto in questo palazzo, avrà a vedere chi mi intende. Ma a Plattamona, Polo Torres volevo dire. Cosa? Volevo dire Polo Torres. Cara, dipende sempre la posizione che hai, dipende. San Marcolino un campo lì, vediamo tipo vedi. Come mai? E boh, che ha fatto qualche mossa strana. Perché sta guardando il televisore, deve essere si è bussato dentro la cosa della cucina. Sul marmo della cucina si è seduto, capito? Era sempre fermo allo stesso punto e è venuto il campo. Sicuramente giocando. No, non giocando, no, al vizio che quando si guarda la televisione, l'ho detto mille volte, gli fa male agli occhi e tutto, niente da fare, si posa in alto romando della cucina e si guarda la televisione da vicino, sta sempre seduto in quella posizione all'indiana, mi così. Marcolino, Marcolino, perché non si fa male e non lo impara mai, no? No, gli ho detto che può cadere, che gli fa male agli occhi, tutto canto, no? Si mette nel momento che glielo dico, poi pide e torna e si fa tipo le luci. No già. Sì. Comunque, come ci sia, quella antenna di Capri 2, qua arriva molto meglio di qualcuno che c'ha la mattola. Eh sì, perché quelle dalle parti ho capito. Invece con quello di Grappini, lui che è lì e io in quella zona, va bene che ce l'ho abbastanza favorevole. Ma è un po' sicuro, Ah, beh, c'è la montagna davanti, c'è tutta la zona del Mascali lì, dove hanno fatto le gallerie, tutto roccioso, il cementificio, è tutto un casino. E vabbè, comunque la deve ancora alzare, i radiali attaccati al tetto, adesso chissà il stazionale che va, i radiali che sono attaccati. Poi se voi alzate il tubo, devo mettere un po' più di tubo, anche perché se no disturba la televisione e tutto. Quindi non è che anche se un quarto d'ora non è che funziona male male, se le metti alte è bene, anche un quarto d'ora già fanno. E poi se le metti qualche vatto, visto che sono una bomba, arrivano quante qualsiasi antenna. No, quello no. Magari in vicinanza, sì, prendono molte città in vicinanza, ma se tu prendi e fai un DX o una cosa, non ti rendono come le altre antenne. In lontananza, no. Dice di no. Magari prima per qua, magari prima io, anche in lontananza con la Gran Premia arrivavo fuori e cose, però prima che c'era meno inquinamento atmosferico, adesso è un po' più tribula. Eppure prima l'operavano per fare proprio quello. Ma prima, te lo sto dicendo, prima l'inquinamento atmosferico era diverso. Ah, comunque sono andato a vederlo, quella scommessa là l'ho vinto io. QRM vuol dire rumori generali. QRN vuol dire praticamente rumori provenienti dall'aria. Tu chiamai come ti vuoi, comunque QRM sono fatti provocati da disturbi radioelettrici che sono naturalmente nell'aria certamente. No, il QRN è quello dell'aria, se no te lo faccio vedere. L'alfabeto CB, tutte le cose, tutti i linguaggi. QRN vuol dire disturbi atmosferici, QRM vuol dire disturbi generali di moto, di macchine, tutte queste cose qua. Quindi me la prendo la vincita. Vai, guardatelo, l'alfabeto per qua, che già c'è, tutto l'alfabeto CB, eccetera, eccetera, e c'è scritto. Disturbi generali che cosa? Allora, QRM è rumori generali, possono essere rumori di moto, di macchine, di un motocicletto che fa il fosso, tutte queste cose qua. Però il QRN invece è dovuto dalla cosa atmosferica, proprio dall'aria. Allora, QRM certo è un disturbo generale, ma stati provocati dal sistema radioelettrico che si trova in atmosfera. Una moto che passa produce al sistema radioelettrico dei disturbi, sono sempre disturbi, tutto quello che si trova nell'aria disturbo radioelettrico. E certamente una moto piccola per se stesso non so, meno che non sia elettrico. Che ne so, una macchina che ha la pompa che fa rumore, che ha un'altra radio che ti passa vicino, o persino un satellite te lo può provocare. QRN dipende dall'atmosfera, QRM sono disturbi generali, c'è scritto. Così. Allora, un altro che era registrato, chi era avanti? Buonasera, ciao, io ciao, ciao Gianni, ciao anche Andrew. Allora, in funzione del vocabolo. Allora, QRM siete disturbati, QRM siete disturbati da parassiti, parassiti sarebbe i disturbi generali che ci possono essere in città, come ha detto per Paolo, così, in questo tipo di disturbo, anche atmosferico. Oh, ci hai spiegato in un modo diverso, dove l'ho letto io. Adesso guardando, c'ho le, guarda, adesso dico le radionature, c'è tutto, le, come si dice, il codice Q, ecco, esatto, il codice Q. La presentazione qui di seguito le entrate valgono sia per la domanda che per la risposta. Il coso qui, perdono, adesso dico anche la definizione esatta. Sì, ma qual è dei radioamatori? I radioamatori hanno un altro linguaggio, non hanno quello di CB. Allora, il linguaggio già è unico, capito? Il codice Q è unico, non è radioamatore, c'è un diverso o CB. Il codice Q, ecco, è il codice. Allora. Non è unico perché QRL si dice lavoro QRL, noi diciamo QTH trabacco. C'è tutto quanto elencato, ed è il codice Q. Ma non puoi dire che è unico, perché loro lavoro dicono QRL, noi diciamo QTH trabacco, è diverso il codice, che stai a dire? Ma questo è un codice, diciamo così, imbastardito nel CB, però c'è un codice internazionale, il codice Q, e quello basta. E poi i CB dicono una cosa diversa, quello è un altro problema, non è imbastardito loro. Però il codice Q è unico, è un codice internazionale, usato dai radioamatori. Se poi il CB l'ha imbastardito una frase, non è sbagliata, non corrisponde alla realtà. Non l'ha imbastardito, ognuno c'è il suo di linguaggio, questo è a dire. Da quando è mondo, ci abbiamo avuto sempre quel linguaggio lì, il radioamatore ne ha avuto un altro. E io sono tanti anni che ci sono frequente e sempre c'è tutto così. Poi, non lo so, vedi un po' cosa ti dice. Comunque se il libro del radioamatore si attiene solo alle regole radioamatoriali, non a quelle di CB. No, questo qua solo il codice Q, non lascia per la radioamatore, però qua il codice Q è uno solo, capito, internazionale. Se poi radioamatore CB, per un esempio ti faccio, no? QRB, la forza dei miei segnali varia, poi io, questo è quello originale, se poi io lo definisco quanto al simbolo, quanto problema? Però il codice Q, il codice internazionale, è quello lì, è unico, dice quello e basta. Se poi CB lo dice, lo cambia, e per 20 anni c'è sempre qualcosa cambiato, è un altro problema. Però qua, ce l'ho qua proprio, tipo sì, sono tutti quanti, tutte le cose, capisci? Poi, allora, aspetta, allora, tipo N o L, non ho nulla da trasmettervi, poi N o vuol dire no, oppure N o W adesso, c'è tutto, e qui c'è internazionale, poi, io sto dicendo com'è, poi ognuno lo gestisce o lo soffia come vuole, avanti, che fa? E qua fa, sono andato in internet a leggerlo, come era questo ricordo, come ha detto QRM, QRM, QRN. Prova a cercare il codice Q in internet e vedi se ti darà quello che c'ho io. Capito? Per dire QRF, fate il ritorno A, località. Oppure QRG, volete indicarmi la mia frequenza esatta o la frequenza esatta di? Oppure QRH, la mia frequenza varia? QRI, qual è la traiettoria della mia emissione? Ci c'è tutto, è il codice internazionale. Già. Quel codice io non lo conosco, io conosco quello CB, non basta. Quel codice lì non l'ho mai sentito e non mi interessa manco saperlo, perché a me di roba radioamatoriale non voglio sapere nulla perché non me ne affittizza. Ascolto qualche volta, come si chiama, in internazionale, qualche volta vado su 145.525, ma non è più che altro perché conosco le persone che parlano lì. Nemmeno più sto andando sul link nazionale perché non mi piace nemmeno. Gianni, allora non è questo il radioamatoriale, capito? Non esiste un codice CB, non esiste legalmente. È stato storpiato dal codice Q, capito? Hanno cambiato dei simboli, però legalmente, cioè ufficialmente, i CB non hanno un codice loro, come dici tu. Cioè il codice Q e basta, è una cosa internazionale. Se poi i CB negli anni hanno cambiato un loro modo di usare, è un altro problema, però non esiste legalmente un codice come CQ, capito? E gli stessi sono il codice Q internazionale, luce regolati, luce tutti quanti, capito? Non esiste un codice DCB legale, cioè, capito? Se esiste siamo fatto tra di loro, come possiamo farlo noi in 20 persone, ci mettiamo d'accordo, diciamo RV vuol dire ciao, oppure GF vuol dire quello, però non è una cosa legale, cioè non è non legale nel senso, non è una cosa scritta legalmente nella come codice proprio legale usato da tutti. E come dici tu, secondo me. Ma poi quasi che mi sbagli pure, però tutto il mondo conoscono il codice CB, quindi non penso che sia una cosa inventata o fatta da una persona particolarmente. È un codice che si usa come lo usavamo prima, forse tu non l'hai conosciuto, quando si entrava si parlava solo col codice, cioè la tua Grenellona, la tua 50, la tua 25, tutte queste cose qua, si diceva tutto in codice, adesso lo diciamo ragazza, tua madre, tuo padre, tuo nonno, ecco, però prima era diverso. Era un modo di fare di CD, però se tu lo cerchi, come codice CB, non esiste, se cerchi il codice Q, esiste, io ce l'ho qua, è un libro ufficiale, se sei interessato a cercare in internet, c'è anche in internet. Supportami per iscritto che è stato ricavato dal codice della Diamanturi, perché io non ci credo, io credo che siano due cose a sé. No, non è la Diamanturi, lui usa anche nelle documentazioni marittime, non è come la Diamanturiale, capito? Ed è una cosa ufficiale, non è che gli hanno inventato la Diamanturi, è una cosa ufficiale, e diciamo, così c'è Q, è usato anche nelle comunicazioni radiotelegrafiche. Vuol dire che ci sono delle persone che parlano una con l'altra, è un discorso, va. No, ma qua dice che si usa per dire che sono in collegamento, capito? Questo è un collegamento. Questo è un collegamento, aspetta, questo potete comunicare con direttamente o mediante appoggio, forse questo potrebbe essere come questo stiamo facendo noi. Esatto, questo. È un questionario in corso, vuol dire che sono delle persone che parlano, degli interlocutori che parlano uno con l'altro. Io l'ho usato sempre così, questo. Forse in questo potremmo più o meno siamo così, questo è un discorso, non penso che sia una chiamata, io chiamo dall'America un questo. Un circolare, forse, parlare da me, almeno due persone. Cosa vuol dire? Quello che sto dicendo io. Come sento, dici che discussione pratica, no? E collegarsi con uno o più persone. Vabbè, collegarti con le persone cosa fai? Parli, no? Di fare discorso. È la cosa primaria è questa qua. Fai un discorso, quando ti colleghi con le persone e fai discorso, no? Uditivo cosa vuol dire? Parlare. No, messaggio. Ma poi diciamo, me già me c'è un QTC da Pierpaolo. QTC, messaggio. Per mettere un messaggio per seconde persone. E vabbè, hai ragione quello di sì, no, non me lo ricordavo. E vabbè, adesso non è che li usiamo più di tanto, ma prima li usavamo. QTR. QTR, boh, non me lo ricordo. Perché era l'orario? Guarda quello che c'ho io allora per farai, capisco. Cucere sai allora già stam, cucere dovete permettere il vostro indicativo di chiamata a scopo di regolazione o per sentire la misura della vostra frequenza, allora. Come questo qua, sai cosa è già, che molti di questi qua non li abbiamo mai usati, molti ti ricordi molti questi che dicevano che era il posteriore. Vabbè quello lì è chi pasticciava le cose, ma questo era un discorso tra una persona e l'altra, era un dialogo là, questo era appunto una comunicazione con un'altra gente. Comunicazione, comunicare significa parlare. Bene, se ti chiedo rubinetto, tu cosa mi rispondi? Rubinetto! Via, rubinetto! No, non me lo ricordo. Acqua! No, canale di trasmissione! Cioè tu mi devi rispondere che canale di trasmissione sì! No, quello lì non l'ho mai usato, quel vocabolo, per particolare verità, non saprò manco l'esistenza. Whisky! Whisky sono i fatti! Dava, dava! Quello, il greccherlone è il greccherlone, lo dicevamo. Puoi indicare la signorina YL, così dice nome già. Ma, vabbè, è diverso da più o meno quello che dicevamo noi. Signorina, YL può essere la signorina, non Y. Y o L? Signorina, Y o L, io corretto. Y o L? Sbagliato mi sono. Y o L si dice, sì sì, quello io lo so. E così è, Y o L. Y o L, si dice Y già, anzi che mi conviene. Vabbè, ma il nome è Y o L. Vabbè, ma la signorina si chiama YL in gergo CP. Poi, vabbè, è stata letta in modo, diciamo, diverso da quello che si dice. paese sono da cercarle. Uno se è diverso dai rilevatori. Io vai, cercava. Ma comunque sì, ha ragione, qualche vocabolo io, tipo rubinetto, non ho mai sentito, no, almeno che senza tonnellera dopo io. Mi sei primitivo come linguaggio. Vediamo un po'. Molto accorto. Baci. Baci, baciotti. Maracamento. Vuol dire mezzo di trasporto, auto, macchina. No, barracamento significa stazione tra il mittente e l'autotreno. E barracone? In cui mi chiamone. Barracone significa grosso ricce tra il meccipone, che è. Tenere. Voi, voi, professore, dai. Viva anche a... a mascherato, poi ci arrivo davanti, non va. E io questo non ce l'ho. Ha buttito. Questo qua non ce l'ho. Che ce l'ho. Sto la sto leggendo, pietà. Lo sto leggendo io? Sì, io, lo sto inventando. Allora io lo sto leggendo dal computer e lo sto leggendo sul sito del CP. Ah, sì, tra l'altro tu diciamo come speciale sono utilizzate. Ok, però se uno dice HI, leggi la diventa la portante, se ti è scritto. Copiato come? Guarda, ti metto la portante. Cosa fai come? Io qua c'è scritto soltanto così, da chi mette la portante, mi si tagliano le mani. Tu lo dici secca, no? No, come tu. E non ce n'è altro parlo da interrogare a mascherata. Vieni già, vi siete trovati l'antivantone. Aspetta, adesso devo interrogare a te per parlo, io. Sito, però beh, ti metto la portata. Ma dimmi una cosa, in questo sito cosa c'è? Appena apri la pagina, la foto di paletto. No, no, no. C'è la maschera di mascherata. Oh, Antonio, quando ascolti di segnale? Ora, lo vedete. Sei quasi 9.30, sì. Polo. Beh, siamo vicini, già. Già, cosa ti hai bucato? Tanto, poi. 1, 2, 3, chiama. 9.5. E vedi, avanti, che fa? Sì, avanti, io sono andato. Che devo fare una... Come si in questo caso, come si dice già? Questo è in greco. Questo è in greco, devo fare, qui. Una questi greca al PH Piccoli. Vabbè, dai, riprendo subito la stazione fa, così tira qua, la ascolto. Parlo con Mulo parlo io. Avanti, andiamo avanti, c'è anche Falchetti. Vabbè, qua non c'è problema. Ma che no? Già, non c'è proprio a fondo se i nocchi. Qui Fabrizio è quasi a fondo scala. Io vabbè, ma Fabrizio non può competere con me, poverino. Vabbè, non c'è un'antenna, sennò qua me ne è arrivato sparato. Ci avrebbe avuto la mano qua su Buai. Qua me ne è arrivato proprio a fondo scala. Già lo so. Io non competo con nessuno già, io sono arrivato così, mica sono prepotente come qualche duro. Ma l'ho detto per toccarla Fabrizio, e tu che te lo difendi? Ah, non è una grande, non comprendi mai nulla. Capito, sono, io non sono prepotente, sono una persona calma. Ho capito, e anch'io no, io sono prepotente. Io sono calmo, però non mi devi prestare i piedi, quello sì. Capito, anche io sono tranquillo, non faccio mai polemiche e basta, capito? Io sono contro le guerre. Te la appoggio. Io sarei in sacco. No, te ne dia. Ma io penso che se uno fa, sia per la pace viva meglio, chi ce l'ha con tutti e con tutto è sempre nevrotico, sempre... Boh. sempre adirato, sempre contro tutti. Poi fai solo contro tutti, capito? Perché quando vedo una persona così la scartano tutti. Sicuramente. Capito, dai. Già, se una persona si comporta bene, va sempre bene, non c'è motivo di incazzarsi, ma quando una persona gira le palle, allora le cose cambiano. Non sto parlando di nessuno particolare, sto parlando in generale, ho detto, se uno vive pacifico, se vuole stare in pace con tutti, vive meglio. Mentre invece uno che è sempre adirato, sempre coso, fa dispiti, fa questo, fa l'altro, sta sempre nervoso e basta. E così è stato. Non bisogna uscire nessuno, non bisogna uscire tutti i gatti che ci sono così, normale. Capo, avanti Fabrizio, aiuti, ci diciamo, là. Mi sto facendo una selezione dei fiormini qua e non riesco a mettere, che sono i piccolini, cioè mi sto rompendo la spalla con questo cazzo di pinzetta. Vabbè, riprendo subito. Fermini, non c'è pure la tovaglia. Ah, no, parecchio, cioè, sono i fiormini piccolini, devo li metto con la pinzetta in ferro, perché ci sono di quelli che ti stressa. Smontata lo sta. Ma? Smontata lo sta. No, sto piazzando, ci sono dei fiumini che fanno un pezzo, là, un componente che sono dei fiumini. Da avanti mi faccio le rocco. Ok, vai, vai. Quanto. Via. Vai, non c'è problema. Vabbè. Già lo so, quel discorso di prima, dai. Bisogna essere tranquilli e andare sempre avanti. Io sono per la pace, io sono per la pace, l'importante è che non calpesti nei piedi. Beh, quello è ovvio, quello è più che ovvio, uno deve lasciarsi in pace e tu devi ricambiare, è normale che se ti cerca ti trova. Nessuno dice che siamo tutti agnelli, eh. Anche gli agnelli si sono girati. Beh, certamente che sì, già. Certamente che sì. Troppo, così. Cioè, si spera che non sia mai così, ma qualche volta però è così. Vabbè. E la che fa il palco, fa il chicchio. Fa il chicchio. Dentro la bustina. Sì, non lo vuole pure lui. Casinosi. Quando la segretaria a consigliare con i matrimoni per me dalla moto. Spegnerlo, non c'è mai, dice a casa ce l'ho, no, si incanta l'allarme. Come una volta che io ti ho fatto, mi hanno avvisato dei clienti a me, guarda signor Gianni che ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri, deve essere qualcuno li ha chiamati, noi stanno sfasciando la macchina, stanno aprendo, vogliono aprire il cofano col palanchino. Cazzo, stai dicendo, tu che ci sono macchine? Ha giubilato, sono andato a correre, ha acciappato già col palanchino, mi erano facendo la macchina. Ha detto, questo signore è malato, questa macchina continuamente suona l'allarme. Ha detto, vabbè, lo disinseriamo, non ci bisogna sfasciare la macchina, bastava, ma noi non potevamo sapere di chi era. E quindi abbiamo, dove stavamo procedendo col palanchino. Ma ti fa sciare la macchina per un coso d'allarme, boh, per una stonza che, bah, lasciamo perdere, va. Era un'anziana zizzetta, così ammalata, e di chi si chiama la medicina di Bucci, che dice di essere, che ha praticamente il fluido nelle mani, che ti passa la mano e ti fa guarire i dolori, tutte queste cose qui fa, mi ci fa di una così e compri le pure la ieri. Vi saluto, grazie, ciao. Ciao Gianni, ciao Pierpaolo, ciao anche a Antonio. Buonanotte, ci sentiamo alle prossime, a te già. Ciao Fabrizio, buonanotte, ci sentiamo, dai. Risolto il problema dell'apparato. Ehi, tutto a posto, eh. Ci sentiamo avanti, Pierpaolo. Ciao, buonanotte, Fabri, buonanotte, ciao, ricordati. Antonio si è salutato un attimo, ti saluto da parte sua, dai. Ciao, buonanotte, risentiamo alle prossime. Ciao ciao. Per qua non ha letto barra nautica, ha letto. No, poi lo chiudo perché sono andato dove tu sai. No, perché adesso che stiamo pensando tra le cose c'è barra nautica che sarebbe l'imbarcazione. Sì, sicuramente c'è, cioè, io non ho letto tutto, ho letto così a te a saltire, ma sicuramente c'è. Dunque si stava dicendo per quel discorso degli allarmi, sappi che attualmente la legge come sono adesso, e l'allarme è considerato un disturbo e se intervengono, ci spiegano, per esempio una volta c'era una gioielleria che suonava l'allarme in orario di chiusura, sono intervenuti i carabinieri che qua hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. E l'hanno accolta in massa, l'hanno disintegrata e pratica per smettere. Ti ricordo che poi per l'allarme c'è, perché dice adesso cosa succede, questo si mettono la denuncia per disturbo della finanza pubblica, a chi era avvenuto. E poi se devo pagare un verbale di quasi 1500 euro. Quinamente acustico. Tutto il diretto, c'è addirittura la denuncia penale, c'è la denuncia penale, capito? E siccome non fanno niente, voi dite che sia così. Ma una volta che chiede l'intervento per disinserirlo perché non riesco, anche se riescono a trovare il proprietario quando arriva, e fanno ormai la denuncia penale, penso che lui non le va a denunciare. A me non mi hanno fatto niente, a me i carabinieri sono malati, la prossima volta cerchi di farselo regolare questo allarme perché non può stare suonando così, ma quello lì ogni tanto suonava, quello dell'appunto, guarda, mi ha dato un po' di problemi, l'allarme dell'appunto mi ha fatto bisticciare con gente, con quello di fronte che adesso non ci abita più. Mi ha detto di regolarmi bene la macchina, te l'ha posto da te, lui sai che se l'è tolto che vela in cosa, il mio bollicino prima, quello bassottino grosso, grosso di tarpiato, quello stava proprio di fronte a casa, si era messa a voci che disturbava questa macchina, beh, si è assolato perché magari è andato qualche gatto sopra, qualche cosa, se no non avrebbe suonato. Tanto la volta di asciugato, cazzo, io ho pensato di era sempre così, e invece la mattina mi sono trovato il vetro tutto intero dentro, mi hanno fregato lo stesso. Allora, per cui quando avevamo la sede in via Rosello, già, lì la notte c'era la vista di parcheggiare via Rosello, sai benissimo che addirittura c'è il divieto di accesso da una parte, che si va dal corso, si può entrare, lì c'è il divieto di parcheggio, il divieto di accesso e tutto. C'era una macchina parcheggiata, tutta la notte rompendo le scatole, alle 4 del mattino qualcuno secondo chi è, qualche poveraccio magari, e la sfiga cazzo che ha suonato l'allarme, vedi. Io prima nella moto mi avevo uno di allarme che la mettevo in moto da casa, poi scendevo giù, si ricevevo la chiave, me la scaldavo giù da casa, rimaneva 5 minuti accesa, poi se tu scendevi giù si ricevevi la chiave, rimaneva accesa, se no si spegneva da sola. E questa norma qua aveva dei problemi lo stesso, si suonava da solo, un casino. Ma per cosa ti dico che non era un poveraccio? Ah, e allora basta. Non era un poveraccio, era il parola del tratto. E vabbè. Solo che lui doveva lavorare, qualche posto questa macchina doveva metterlo. Beh. Dove se la mette il poveraccio? È un casino, quelle vie lì, poi dove è che ho trovato il parcheggio? O passi da Piazza Tola e poi scendi giù dal vicolo. Allora, c'era una poca di carica a fare quando passa qui. Ti ricordo che c'è Piazza Colonna Mariale, che c'è un bello parcheggio bello grande. Addirittura all'epoca non era neanche a pagamento, figurati. Ma il posto lo trovavi, non avevo trovato l'ultimo comunque. Regolare anche la sensibilità, so che tu, se tu la regoli troppo è inutile che ci sia questa allarme. Yeah.